Ma l'esito che si profila è un esito molto preoccupante. Si sposta decisamente a destra l'asse politico, il Movimento 5 Stelle sceglie il suo lato destro, forse definitivamente. Naturalmente lo fa essendo stato molto aiutato, questa scelta, da chi fin dall'inizio ha tifato per il tanto peggio, tanto meglio. Ci ricordiamo gli annunci di chi acquistava popcorn, metteva in ghiaccio lo champagne, pronto a festeggiare un esito, quello del tanto peggio, tanto meglio, che non fa i conti con la vita reale del paese, con i problemi e con i bisogni di questo paese. Noi, Liberi Uguali, saremo all'opposizione di questo governo. Naturalmente sarà un'opposizione netta, chiara, ma anche un'opposizione sfidante. Voglio vedere se alcune delle proposte che hanno qualificato quella campagna elettorale da una parte e dall'altra saranno realizzate. Avevano promesso di abolire la Fornero, bene, io sono d'accordo, aspettiamo in Parlamento che quel provvedimento arrivi, così come per altre proposte, dal reddito di cittadinanza a misure che invertano una tendenza sociale che in questi anni ha peggiorato la vita di molte persone. La verità, temo, è che in questa scelta e in questo asse, quello di un governo, ripeto, il cui segno è esplicitamente il segno della destra di questo paese, non solo molte di quelle proposte rimarranno sulla carta, ma ne vedremo di ben peggiori. Ecco, tu l'hai citato indirettamente, però insomma l'atteggiamento di Renzi e dei renziani forse parte da un presupposto, che è quello di lasciare che appunto Lega e 5 Stelle dimostrino la propria incapacità. Però, come dire, è l'esito scontato questo? No, questo è il frutto di una scommessa sbagliata e pericolosa, ma è il frutto soprattutto di chi in realtà mostra il massimo della irresponsabilità nei confronti della condizione del paese, non della stabilità delle istituzioni, del governo in quanto tale. Un'idea della responsabilità che da troppo tempo è lontana da buona parte della politica di questo paese, cioè quella che guarda alla vita reale, ai troppi morti sul lavoro che continuiamo a contare ogni giorno, all'aumento della povertà, ed è però anche il frutto, e questo mi pare forse il fatto più rilevante, di una lettura, quella del Partito Democratico, che traduce la propria sconfitta sostanzialmente in questa frase, cioè quella che dice: a non capire sono stati gli elettori, sono loro che non hanno capito quante belle cose avevamo fatto. Forse dopo tante sconfitte una dietro l'altra, qualche riflessione sulle ragioni di quelle sconfitte, dunque sull'inefficacia delle politiche proposte, sarebbe stata necessaria e utile. Ripeto, occorre ora, per parte nostra ci proveremo, in Parlamento continuare a portare avanti questioni di merito e su questo opporsi, ma anche sfidare il quadro politico che si è andato costruendo. Questa mattina il capo dello Stato Mattarella ha parlato con un messaggio che sembrava indiretto, ma comunque rivolto a queste forze politiche, del fatto che il sovranismo è inapplicabile e che le posizioni anti-europee, insomma, non giovano. E dobbiamo, come dire, confidare nella sua guida per impedire derive sovraniste e anti-europee? Ma guarda, io sono, diciamo, quanto di più lontano ci sia dall'idea che la soluzione alla crisi del progetto europeo e a quello che questo ha prodotto ancora una volta sulla condizione materiale di vita di milioni di persone, le politiche di austerità recenti che hanno aggravato gli effetti della crisi nella vita concreta delle persone, che tutto questo possa essere risolto rifugiandosi dentro ad una dimensione nazionale nella quale c'è poco da fare, l'egemonia che avanza è sempre quella della destra. Il punto però è che questo non significa ridurre, abbassare o tantomeno eliminare il tasso di critica, che invece deve essere alto e forte nei confronti dell'attuale conformazione dell'Europa. Se non si mettono in discussione i vincoli europei, le regole, quelle regole che il PD in questi anni ha sempre difeso, dicevano le regole non si toccano, ci vuole più flessibilità. In realtà la verità è che le regole di questa Europa, i trattati europei sono la prima condizione attorno a cui si moltiplicano scelte che svalorizzano il lavoro, riducono i diritti, peggiorano la condizione di vita delle persone. Dunque, per chi pensa che l'Europa resti un progetto necessario a cui lavorare e verso cui tendere, io sono tra quelli, occorre con altrettanta forza dire che questa Europa va cambiata in profondità.